Letture di Radio 24. Cambiare vita e ricominciare da capo non è sempre sufficiente per cancellare i fantasmi del passato. Jonathan, protagonista del nuovo romanzo di Sabine Tisler, è un fotografo di successo la cui vita viene sconvolta quando sua figlia, Giselle, viene travolta e uccisa da Tobias Altman, un 19enne che guidava in stato di ebbrezza. Dopo aver perso il lavoro ed essere stato lasciato dalla moglie, Jonathan si trasferisce in Toscana, dove conosce Sofia, una giovane ragazza con la quale inizia una nuova relazione e una nuova vita. Ma quando un giorno, per caso, Jonathan incontra Engelbert Kerner, il giudice che aveva assolto l'assassino di sua figlia, il dolore ormai dimenticato ritorna prepotentemente nella sua vita, assieme al desiderio di vendetta. In quel momento Jonathan comprese. Un'illuminazione improvvisa gli fece ricordare che 9 anni prima aveva fissato il viso di quel giudice in una sala di tribunale per un'intera mattinata, quando c'era stato da decidere il destino dell'assassino di sua figlia. Come mai un tedesco si è costruito una casa così meravigliosa proprio qui in Toscana? Che cosa l'ha portata qui? Stava chiedendo Engelbert. Sì, è lui, pensò Jonathan. È proprio lui. Gli girava la testa e non riusciva a pensare ad altro. Diede una risposta automatica. Sa, è una lunga storia, non basterebbe tutta la serata a raccontarla. Non agitarti proprio adesso, si disse. Resta tranquillo, non far capire il tuo segreto. È vero che in Italia costa di più costruire una casa che in Germania? Domandò Engelbert. Sentiva che il vino cominciava a dargli alla testa, ma stava benissimo ed era di ottimo umore. Jonathan fremeva. Adesso non ho voglia di parlare della casa, gli martellava in testa. Voglio parlare di allora, del processo. Voglio sapere perché hai lasciato a piede libero l'omicida di mia figlia, razza di bastardo. No, non costa di più, rispose invece. Direi che i prezzi sono analoghi, però è molto più difficile. Il problema sono le autorizzazioni edilizie. Richiedono una gran quantità di documenti, occorrono anni per averle. Le leggi sono diventate più severe, i controlli più serrati. In Italia ci sono 2 pesi e 2 misure per ogni cosa. Chi è influente può trasformare un fienile in un villaggio e tirare fuori da una minuscola capanna un centro benessere, ma un cittadino qualunque non ha alcuna possibilità. Immagino che avrà dovuto oliare parecchi ingranaggi. Engelbert sorrise eloquente. Beh, qualcosina. Anche le conoscenze giuste aiutano. È logico, non è una novità. Anche in Germania le cose davvero importanti funzionano solo con la vitamina C. Senza conoscenze non si è nessuno. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, altro che. Posso dirle una cosa soltanto. Si crei una fitta rete di amici influenti e sarà a posto. Una mano lava l'altra e se si trovasse nelle pesti ci sarà sempre un amico che saprà tirarla fuori. Come giudice si detiene un certo potere, ma sempre entro certi limiti, capisce? Per esempio, quando il mio amico Henning, che è un importante ingegnere, ha avuto un problema, io sono stato pronto a dargli una mano. In realtà, tutto sta nell'avere l'amico giusto per ogni problema, per ottenere ciò che da soli non è possibile raggiungere. Ci può spiegare come ha potuto aiutare il suo amico in veste di giudice? Domandò Sofia, che fino a quel momento era rimasta silenziosa. Beh, si è trattato di una questione piuttosto delicata. Engelbert era lusingato dalla domanda e raccontò volentieri la storia. Il figlio di Henning aveva combinato un guaio. Aveva appena preso il diploma, con ottimi voti tra l'altro, e naturalmente voleva festeggiare con gli amici. Purtroppo, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ha deciso di andare a prendere la sua ragazza alla stazione. Si è messo alla guida, ma nel suo stato ha provocato un incidente. Una storia davvero assurda, purtroppo finita male. Già. Proprio una gran scalogna. C'era una ragazza ferma al semaforo e lui l'ha investita. Una tragedia. Il poveretto era distrutto. Provi a pensare, un giovane di grande intelligenza che ha appena superato brillantemente la maturità e poi investe e uccide una donna. Come si può superare un trauma del genere? Comunque, come abbiamo appena sentito, è riuscito a fare una spettacolare carriera. Immagini se non avesse superato quello shock. La società avrebbe perso un membro preziosissimo. Ora è un giovane avvocato di grande talento che si occupa di diritto internazionale e avrebbe rischiato di fallire nella vita a causa di uno stupido errore commesso in gioventù. Jonathan si conficcò le unghie nei palmi delle mani che teneva sotto il tavolo per non svenire. Non riesco a capire, domandò Sofia. In che modo lo ha aiutato? Ecco, in poche parole ho fatto in modo che il caso finisse sulla mia scrivania. Ho sistemato tutto perché il ragazzo se la cavasse con il minimo. Il poveretto, del resto, aveva già sofferto abbastanza per i rimorsi del guaio che aveva combinato. Come no? Jonathan aveva la gola chiusa. Il nome del popolo viene emessa la seguente sentenza. L'imputato è giudicabile secondo il diritto minorile. Riceve un'ammonizione per guida in stato di ubriachezza e omicidio colposo. Dovrà pagare un'ammenda di 8.000 marchi e sarà obbligato nei prossimi 3 mesi a prestare 200 ore di lavoro socialmente utile. La patente gli viene ritirata per 6 mesi. Le parole del giudice risuonavano ancora nelle orecchie di Jonathan. Engelbert continuava a parlare. «Sa, io considero mio dovere non solo condannare le persone a pene esemplari. Credo che sia altrettanto importante anteporre la misericordia al diritto. A che cosa sarebbe servito se avessi distrutto il futuro di Tobias? A niente! Certo, la ragazza non sarebbe tornata in vita!» Jonathan temeva che il cuore gli si fermasse. «Soprattutto ho fatto in modo che Tobias restasse incensurato, era la cosa più importante, altrimenti non sarebbe andato da nessuna parte. Se avesse incontrato un altro giudice, gli sarebbe rimasto un marchio a vita e, mio Dio, in fondo all'epoca il poveretto si era trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Quando un giovane comprende il suo errore e se ne pente, allora è già un buon risultato.» «E la ragazza?» domandò Jonathan. «Anche lei si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato?» «Sì. Si potrebbe dire così.» Engelbert assunse un'espressione seria, versò ancora il vino e alzò il bicchiere. «Ragazzi!» esclamò con il volto acceso. «Beviamo all'amicizia!» Tobias Altman è reo confesso e dimostra sincero e profondo pentimento. Da allora non ha più fatto consumo di alcol. Non c'è dunque da temere il ripetersi o il verificarsi di comportamenti analoghi. A favore dell'imputato depone anche il fatto che si è scusato presso i genitori della vittima. Anche questo comportamento ha contribuito a rendere più mite la sentenza. Il tribunale vorrebbe concedergli la possibilità di condurre una vita responsabile e di costruirsi un futuro di successo all'interno della società civile. Prima dell'udienza, un giovane magro con giacca e cravatta si era presentato a Jonathan e gli aveva stretto la mano. «Sono Tobias Altman», aveva bisbigliato con lo sguardo basso. «Volevo esprimerle il mio dolore per sua figlia. La prego di scusarmi.» Detto questo, si era girato e aveva percorso a passo spedito il corridoio del tribunale, scomparendo nell'aula. «Troppo semplice», pensò Jonathan. «Che vergogna. Mi sbatte in faccia una frase imparata a memoria e crede di poter sistemare tutto. No, Tobias Altman, io non ti scuso. Ciò che hai fatto è imperdonabile.» Inoltre, il tribunale ha maturato la convinzione che non servirebbe né alla vittima né ai parenti se Tobias Altman ricevesse una pena detentiva, che sarebbe pregiudiziale alla sua carriera per tutta la vita. Per questo, il tribunale ha deciso per una pena inferiore a quanto richiesto dalla pubblica accusa. «Vi chiedo scusa», disse Jonathan alzandosi, «ma non mi sento bene. Meglio che vada a sdraiarmi. Vieni, Sofia.» «Che cosa c'è? Come mai non ti senti bene?» domandò Sofia, sebbene percepisse chiaramente l'inquietudine che emanava da Jonathan. Gli posò una mano sul braccio. Lui non rispose. «Buonanotte», disse lei. «Grazie per la meravigliosa cena. Siete stati molto gentili.» Engelbert sorrise affabile. «Buon ritorno a casa! E non prendete la macchina! Avete bevuto!» scherzò, scoppiando in una fragorosa risata per la propria battuta. Ingrid porse loro la mano, poi Jonathan e Sofia girarono intorno alla casa e scomparvero nella notte. Jonathan aveva il cuore in gola, la collera lo pervadeva facendolo tremare. Sofia gli accarezzò dolcemente i capelli e la schiena. Lui non riusciva a dormire. I minuti trascorrevano con una lentezza esasperante. Sofia, sdraiata accanto a lui, respirava regolarmente, tenendogli una mano sul petto, quasi volesse impedirgli di alzarsi di nuovo. «Papà, mi senti? Devo dirti una cosa.» «Giselle?» «Sono qui. L'uomo che mi ha ucciso conduce una vita meravigliosa. Quest'uomo è vivo e io no. Mi ha rubato tutto e non è stato nemmeno punito. Una faccenda tra amici. È un tradimento, una vergogna. Non puoi accettarlo. Ti prego, papà, non abbandonarmi.» «Che cosa devo fare?» «Uccidilo.» Non ti capiterà più un'altra occasione del genere. L'uomo che ha protetto il mio assassino alloggia nella tua casa. Vendicami! E come? La voce non gli rispose più. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del romanzo di Sabine Tisler Senza perdono. Corbaccio Editore, 384 pagine, €16,40.